629. Pasticcini di semolino. Semolino grammi 180, zucchero grammi 100, pinoli grammi 50, burro grammi 20, latte decilitri 8, uova numero 4, sale una presa, odore di scorza di limone. Cuocete il semolino nel latte e quando comincia a stringere, versate i pinoli pestati nel mortaio insieme con lo zucchero. Poi il burro e il resto, meno le uova, che serverete per ultimo quando il composto sarà ghiaccio. Per il resto regolatevi come i pasticcini di riso del numero 630. Con questa dose ne farete da 18 a 20. Prima di servirli, spolverizzateli di zucchero a velo.